24 di Giovanni Minoli. Penso che un sogno così non ritorni mai più. In Italia nascono sempre meno bambini. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. I dati dell'Istituto Nazionale di Statistica fotografano un paese in cui le nascite sono diminuite di 15.000 unità. Nel 2015 i giovani di 15-29 anni non occupati e non più in formazione sono più di 2,3 milioni. Finito. Volare. Nel primo trimestre del 2016 il PIL italiano è aumentato dello 0,3%. Cantare. Oh, oh, oh. I più giovani, una generazione molto istruita che tuttavia sta pagando pesantemente la crisi. Felice di stare lassù. Dunque, nel blu dipinto di blu cantava Domenico Modugno, una canzone simbolo dell'Italia, un'Italia diversa che puntava in alto e che forse non esiste più. Giuseppe De Rita, che è il presidente del Censis, con noi commenta il rapporto Noi Italia 2016. Ecco, da questo rapporto esce un quadro interessante ma molto problematico del paese. Ascolti con noi questa scheda. Nel corso del 2014 il tasso di crescita naturale si assesta su un picco negativo mai raggiunto dal biennio 1917-1918. Il tasso di fecondità totale continua a diminuire, attestandosi su 1,37 figli in media per donna, mentre occorrerebbero circa 2,1 figli in media per donna per garantire il ricambio generazionale. Insomma, i livelli di crescita sono quelli della prima guerra mondiale, però all'epoca gli uomini erano appunto al fronte. Oggi cos'è successo? Non dico che gli uomini sono al fronte, ma quello che è successo è che negli anni 70 e in parte anni 80 noi abbiamo avuto un'esplosione di ceto medio, l'abbiamo chiamata noi Censis la cetometizzazione, e quel ceto medio però non è diventato borghesia, è diventato borghesia imprenditoriale, borghesia con una leadership, è diventato appunto ceto medio, piccolo borghese, e il piccolo borghese non fa tanti figli. No? E quindi gli italiani stanno scomparendo? Stanno scomparendo nel senso tradizionale del termine, nel senso di questa capacità di fare figli, di fare famiglia, di organizzarsi. L'italiano tradizionale, quello che ha funzionato fino alle soglie del 2000, in qualche modo sta scomparendo. Ah, ecco, professor De Rita, un paese che invecchia, privo di ricambio generazionale, che allo stesso tempo rottama, non è una contraddizione in termini? No, proprio perché il gioco, come dicevo prima, sta dentro quello che Pasolini chiamava il grande imborghesimento della società italiana. Siamo diventati tutti borghesi negli anni 70, ma non borghesi in senso proprio, piccolo borghese. E quindi dentro la nostra piccola cultura borghese ci sta di tutto, la conservazione, il ritorno al vecchio, il mercatino dell'usato, e c'è anche, diciamo così, la curiosità per vedere di quello che rottama, che succede. Sì. Abbiamo avuto il picconatore, adesso abbiamo il rottamatore, ma non è diversa la cosa. Senta, recentemente il ministro della Salute Lorenzin, per reagire, ha proposto il bonus bebè. È un rimedio? Secondo me no. Non è così antropologico il problema della mancanza di figli, del rifiuto delle donne, degli uomini di oggi a mettere su famiglia, a fare figli, è un meccanismo così profondamente ancestrale dentro la realtà del che il bonus bebè non risolve che niente. Il bonus per 20, 30 anni abbiamo detto non si fecero figli perché non c'erano gli asili nido, sono delle cose che vanno bene per titoli di giornali, ma non per una struttura profondamente diversa come antropologicamente la struttura italiana. Ecco, intanto separazioni e divorzi sono aumentati rispettivamente del 24 e del 39%. Quindi cambia anche i connotati della società. Ma certo, nel senso che la caratteristica di una società di ceto medio è l'individualismo, è il soggettivismo, è il pensare di essere padrone di tutto, padrone della propria vita, del proprio lavoro, della propria casa, della propria auto, della propria moglie, dei propri figli, della propria morte. E questa è la società che vince. E quindi non si mette più su famiglia. La società della soggettività. Certo, e quindi non si mette più su famiglia. Certo. Senta, intanto le discussioni politiche che si fanno sull'immigrazione sembrano basate però su una realtà percepita in modo sbagliato. Ascolti ancora questa scheda. All'inizio del 2015 risiedono in Italia oltre 5 milioni di cittadini stranieri, 1,9% in più rispetto all'anno precedente, che rappresentano l'8,2% del totale dei residenti. Risultano in calo sia gli ingressi dall'estero, sia le nascite di bimbi stranieri. Durante il 2014 sono stati rilasciati 248.323 nuovi permessi, quasi il 3% in meno rispetto all'anno precedente. Insomma, professor De Rita, gli immigrati in Italia sono circa l'8% del totale dei residenti. Però trattiamo il problema come se fosse un'invasione. Ha senso? No, non ha senso, però come si sa, questa è una società che vive di cronaca, che vive di notizie giorno per giorno, quindi l'invasione è una cronaca continuata. I processi di medio-lungo periodo, quelli che valgono, dicono qualcosa di diverso. Da una parte dicono che il sistema italiano tutto sommato accoglie bene, nel senso che non nei centri di accoglienza, ma nelle famiglie, nelle piccole imprese, nell'artigianato, l'immigrato riesce a trovare una collocazione, non è allo sbando come sono allo sbando gli immigrati nelle banlieue parigine. Dall'altra parte c'è il fatto che il nostro sistema è un sistema appunto mediocre, che accetta e sfrutta bene e valorizza anche l'immigrato, però non gli dà grandi prospettive. E quindi l'immigrato dice: ma io vado altrove. E infatti sbarcano in Italia e poi tendono e poi vogliono andarsene. Secondo me sbagliano. Senta, professore, anche sul piano del consumo culturale i dati sono molto bassi: 6,6% contro l'8,6% dell'Europa. Siamo agli ultimi posti. Insomma, cosa succede anche da questo punto di vista? Ma sa, noi siamo sempre stati un popolo di basso consumo culturale. Negli ultimi tempi, negli ultimi 3-4 anni, qualcosa è cambiato. Bisognerebbe vedere come è cambiato il gusto di andare al concerto, di sentire musica, di andare all'opera. Abbiamo un'opera questa settimana qui a Roma che è già prenotata, esaurita per tutte le sue recite. Quindi un buon segnale, lei dice. I segnali si trovano, certo non si trovano nella vendita dei giornali o nella vendita dei libri, ma quella è un tipo di cultura che in qualche modo è destinata un po' a declinare. Però onestamente, dalla visita a Pompei, all'andata alla Scala, a Pappano a Roma, tanto per dire, sì, uno che c'ha il tifo da stadio, certo, e le cose sono cambiate, insomma, migliorano, quindi lei è ottimista. Io che sono un melomane, ho visto passare all'Argentina, quando allora Santa Cecilia suonava all'Argentina, passare i grandi, da Bruno Walter, da Furtwängler, non c'era l'entusiasmo, l'attenzione, la folla che c'è adesso a Santa Cecilia. Quindi se lei fosse un giovane scommetterebbe sull'Italia? Io ancora sì. Ancora sì, perché? Il resto fra figli e nipoti ce n'ho tanti. Appunto. Che scommetter per forza, tra 8 figli e 14 nipoti. Ma anche loro hanno scommesso sull'Italia? Sì, anche loro, tranne uno che se n'è andato in Olanda, ma secondo me è molto più italiano di quanto si pensa. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349-238-6666 per commentare via SMS. Ecco, Pietrangelo, ciao Pietrangelo, siamo di fronte a dei numeri, duri, impietosi sullo stato del paese, però non dirmi che è colpa di Renzi, perché questo processo di disgregazione è di lungo periodo. Tu che ne pensi? Beh, vabbè, ovviamente Renzi è un esito, no? Certamente responsabile di tutto ciò. L'Italia di oggi si merita lui, ma a parte questo, l'unico ragionamento da fare è sulla realtà delle cose. Per esempio, è stato ucciso il commercio minuto e non esiste ambito, angolo, dell'immensa provincia italiana che non abbia avuto come risultato la desertificazione. Poi la proletarizzazione delle professioni cardine della società, penso ai militari, agli insegnanti, adesso anche i medici sono sulla strada del declassamento e poi gli avvocati, gli ingegneri, insomma le libere professioni non sono più il tramite di formazione dell'elite. E all'Italia è venuta a mancare proprio quella fetta importante che utilizzava la trasmissione dei saperi, delle competenze e delle decisioni. Noi siamo ridotti così proprio perché l'impoverimento ha catturato la più ampia fetta della società italiana e reso deserto il territorio. Senti Mario, ti voglio far ascoltare una cosa. Sì. Questo è il giorno del mio battesimo. Nel gruppo in posa per la fotografia di rito, mio nonno è quello seduto in poltrona e io sono quello infilato nel porte-enfant. Mi tiene precariamente fra le braccia la piccola Adelina, nipote della nostra domestica, Nunzia, che si intravede nel fondo. Questa signora con gli occhi celesti è mia madre. Prima di sposarsi studiava canto. E così la sera non mi fa addormentare con le solite ninne nanne, ma con le romanze e con le arie delle opere liriche. Zia Millina, zia Margherita e zia Luisa sono sorelle di mio padre, tutte e tre nubili. Questo è il dottor Giordani, nostro medico di famiglia. Scapolo. Ma ti fanno male, ti verrà il mal di pancia, la febbre, il tifo. Il ragazzo al quale la nonna sta elencando tutti i malanni da eccesso di cibo è lo zio Nicolino, fratello di mia madre, che vive a Macerata ed è in visita per l'occasione. Il bambino che Adelina tenta di invocare è mio cugino Enrico, anche lui è venuto a festeggiarmi, però vive a Roma, è figlio dello zio Michele e della zia Ersilia e infine mio padre, funzionario del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Ecco Mario, queste famiglie raccontate così bene da Gasman non ci saranno più. No, mi venivano in mente tre cose. Eravamo felici, avevamo un avvenire, pensavamo all'importanza degli alberi genealogici. Ma è solo perché era il passato? Sì. Sì, perché il passato, ma in quel passato c'era una proiezione sul futuro. Io sono molto d'accordo con le cose che ha detto ovviamente Pietrangelo. Tutto parte dall'educazione. Certo. Il professor De Rita è stato come sempre perfetto, illuminante, eccetera. Userei una parola più dura da cronista per descrivere lo stato del paese. Profondamente ignorante. Ignorante. Mi spiace. Riccardo da Milano. Riccardo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Yeah. Dica. Sì, siamo in merito a questo, secondo me, ingiustificato allarmismo sul numero sul merito della diminuzione demografica in Italia. Perché io sono favorevole a lavorare fino a 80 anni anche dopo. Sì. Conosco altri miei amici di famiglia che sono ultra settantenni, creano valore aggiunto e lavorano e sono tranquilli e beati e vorrebbero continuare a lavorare fino al giorno della loro morte. Sì. Mio padre ha lavorato fino a 80 anni, purtroppo è mancato praticamente il giorno prima di compiere gli 81 e non lo vedo. Io piuttosto che dare un'enfasi sulla diminuzione delle nascite, forse comunque ci sono tanti altri paesi dove vivono benissimo con una densità demografica ben più bassa rispetto alla nostra, dare un'enfasi sulla capacità lavorativa delle persone anziane. Lo so, però se poi muoiono, se non c'è il ricambio, poi finita quella generazione, è finito tutto. Vabbè. Grazie. Comunque i giovani, abbiamo sentito, in realtà sono sempre meno. Ecco, perché che idea ti sei fatto su questo dato dell'Istat, Mario? Ma sai, cioè, il fatto che i giovani siano meno purtroppo significa appunto non avere proiezione più in là. Non avere trentenni significa fare meno figli. Non avere trentenni significa avere meno consumo di entertainment sul medio-lungo periodo. Purtroppo le cose stanno andando così. Se non si inverte la rotta, in capo a qualche decennio l'Italia come l'abbiamo conosciuta, quella di oggi sicuramente non c'è più. Poi potremmo fare molti discorsi sul sapere, la produzione culturale, ma insomma comunque alla fine la ciccia è questa. Molte reazioni naturalmente di ogni genere, immigrazione selvaggia, cattiva politica, scoraggiano a fare figli, dice qualcuno, bonus bebè andrà agli extracomunitari, loro in Italia loro in Italia sono aiutati come famiglie italiane. Posso dire una cosa? Sì, molta rabbia. Sì, no, diciamo, io la comprendo, sono un papà, ho famiglia, anche io, tutti noi. Però facciamo anche un esame di coscienza. Pensiamo ai sacrifici che hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri, le nostre madri, per, e quindi le nostre famiglie, per tirare su noi. Certo. Cioè, voglio dire, qua ci sono famiglie, ci sono due o tre telefonini, dicono non abbiamo soldi, elimina i telefonini. Certo, cioè, intanto. Elisio da Novara, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dica. Emilio. Ah, Emilio. Sì, salve, ma volevo semplicemente raccontare un po' quello che è la testimonianza. Io, premesso, sono di origine albanese, qua in Italia da parecchio tempo. Sì, dica. Prima di tutto volevo spegnere un po' di leggende sul fatto che, in quanto extracomunitario, dallo Stato, dal Comune, non ho mai ricevuto niente di così, insomma. Significa. Però la faccenda è che ho tre bambini, due vanno al nido e uno va alla materna, per un complessivo di quasi 1.000 euro, premesso, tutto comunale e niente privato, sì. E ricevo dallo Stato poco più di 450 euro. Sì. La gente si domanda come fa uno a creare, a fare dei figli. Lei cosa fa di lavoro? Io faccio il camionista, e grazie a Dio con un buon stipendio. Lei lavora anche, pur di mantenere, diciamo, il posto di lavoro, siamo costretti a mandarli negli asili. Certo. Però la mia domanda, anziché dare tot soldi al mese per poi riceverli alla fine dell'anno, dover pagare un commercialista con dei conti complicatissimi e ricevere il 20% di non so che, e col 7, cioè, non sarebbe una cosa molto più semplice un'agevolazione, altro che un bonus per bebè o quant'altro? Non sarebbe molto più va semplice, bene, dire 100 euro a bambino e questo è quello che fa carico. Sì, grazie. Comune. Grazie Emilio, questo è quello che su cui si sta muovendo in qualche modo la Lorenzina. Emerge il tema della riforma fiscale. Infatti. Questo è il vero punto, che è il vero problema sul quale, cioè, tutti si arrovellano, ma poi bravo, è così. Comunque noi continuiamo questo racconto attraverso i dati del rapporto Noi Italia di Istat con un altro professore, il professor Domenico De Masi. Ecco professore, ascolti con noi questa scheda sulle dotazioni in realtà di infrastrutture in Italia. L'Italia si colloca tra i paesi dell'Unione a più bassa intensità autostradale in rapporto alle autovetture e dispone di una rete ferroviaria che, se rapportata alla popolazione, è inferiore alla media europea. La nostra posizione migliora leggermente con riferimento alla rete elettrificata. Riguardo la disponibilità di autovetture, l'Italia è di gran lunga uno dei paesi più motorizzati, preceduta solo da Lussemburgo e Lituania. Professore, abbiamo le automobili ma non le autostrade. Dal suo punto di vista cos'è? Il segno di un individualismo esasperato? Siamo stati il luogo di elezione di 3, 4, 5 case automobilistiche. Una più famosa dell'altra, di tutti i tipi, automobili di lusso, automobili, d'accordo, eccetera, eccetera, e questo naturalmente ha influito molto, non è dubbio. In secondo luogo, la scarsa preveggenza delle esigenze di servizi. Certo. In tutti i campi noi abbiamo servizi sottodimensionanti rispetto infatti. L'automobile sicuramente è un indice di preferenza per tutto ciò che è individuale, che è privato, rispetto a tutto ciò che è collettivo e pubblico. Ecco, i numeri raccontano di un paese bloccato, effettivamente. Non facciamo grandi opere, ne abbiamo un bisogno urgente. La democrazia che non conclude niente sta diventando un problema. È un problema soprattutto in un momento di grande disoccupazione. Noi sappiamo che secondo Keynes per vincere la disoccupazione occorrono grandi lavori pubblici e bassi tassi di interesse. I bassi tassi di interesse ci sono e Draghi fa di tutto per abbassarli continuamente, e invece i lavori pubblici non scattano. Ecco, ma è un problema di democrazia o di burocrazia? No, non credo che c'entri la burocrazia. La burocrazia è uno strumento, non è una causa diretta. La causa diretta è la incapacità di progettare. La società post-industriale vive di progettazione di futuro. se io non progetto il mio futuro, qualche altro lo progetta per me. Ecco. Ma da questo punto di vista, allora il progetto di riforma della Costituzione va nella direzione di semplificazione del Paese? Ma parte sì, parte no, non è certamente di là che arriverà la soluzione. Quello che noi voteremo è una serie di cose, non una cosa sola, per cui ognuno di noi magari sarebbe d'accordo su qualcosa e non su qualche altro. Certo. Bisognerebbe spacchettare il tutto e quindi chiedere. Senta, comunque nel 2006 l'Italia aveva 84 brevetti ogni milione di abitanti, oggi siamo a 60. Cioè sfuma anche un altro mito, quello degli italiani popolo di inventori? Ma noi non siamo mai stati grande popolo di inventori, abbiamo avuto delle punte forti naturalmente, da Galvani a Volta, a Galileo, a Marconi, ma complessivamente il paese non è stato... Di solito sono i paesi poco creativi che si danno la patente di alta creatività. Per esempio Napoli, io sono napoletano, diciamo di cultura, ci riteniamo fortemente creativi. In effetti in 200 anni, mentre altrove hanno inventato microprocessori, hanno inventato sulfamidici e così di seguito, noi abbiamo inventato la pizza e alcune sue varianti. Senta professore, ascolti quest'ultima scheda sempre tratta dal rapporto Noi Italia di Istat. L'Italia, assieme alla Grecia, occupa la terz'ultima posizione nella graduatoria relativa agli utenti di internet, mentre Lussemburgo e Danimarca hanno raggiunto valori prossimi alla saturazione. La percentuale di famiglie italiane che accede a internet mediante banda larga è inferiore alla media europea, mentre i tassi più elevati si registrano nel nord Europa. Ecco, professor De Masi, agli ultimi posti anche per accesso a internet, eppure siamo tra i principali possessori di telefonini al mondo, insomma un po' come le automobili e le autostrade, un'altra contraddizione. Io sto parlando dal centro di Roma, Corso Vittorio Emanuele, abito qui e non ho la banda larga, non so se è chiaro. È chiaro. Quindi stiamo parlando di situazioni veramente paradossali, significa come non avere l'acqua corrente o come non avere la luce elettrica, oggi una cosa del genere. Certo. Professor... Purtroppo... Sono ritardi, ripeto, che derivano da una scarsa capacità complessiva di progettare il nostro futuro. Esatto. L'Italia anche nelle ultime posizioni a proposito di progettare per numero di laureati in discipline tecnico-scientifiche, cioè quelle lauree che servono appunto a costruire i progetti e il futuro. Possiamo recuperare questo gap secondo lei? Dunque no, non credo che per progettare il futuro occorrono soltanto i tecnici, credo che anzi i tecnici siano al servizio di chi ha poi idee umanistiche. Il problema è che noi, vede, su 100 giovani in età universitaria, consideriamo in età universitaria da 19 a 29 anni, su 100 giovani negli Stati Uniti 92 sono iscritti all'università, da noi 36. Questa è la base di tutto, cioè oggi la laurea non serve per lavorare come credeva il ministro Gelmini, serve per capire il telegiornale, serve per essere per persone, per essere cittadini. Per essere sì. Come era la quinta elementare a suo tempo, certo. Quando il ministro dell'epoca introdusse la quinta elementare gli si obiettò: ma che ce ne faremo di tanti alfabetizzati? E lui rispose: serve per vivere. Stessa cosa si può dire oggi della laurea. Ecco, professor... Quindi è la base proprio che ci manca. La base 36... per entrare nella vita. Sì. O tenga conto che abbiamo 36 iscritti all'università su 100 contro i 92 degli Stati Uniti e abbiamo introdotto il numero chiuso. Quindi è perfino ironica la cosa. Mentre la Germania facilita l'ingresso all'università eliminando le tasse nel primo triennio. Professore, le faccio anche lei la domanda che ho fatto per chiudere al professor De Rita, ma se lei fosse giovane, scommetterebbe sull'Italia di domani? Io ci scommetterei, nel senso che reputo che l'Italia, come qualunque posto in cui uno vive, ormai sia una piattaforma, poi si gira, per cui non è tanto oggi il luogo dove uno ha la residenza, è dove uno ha la testa, e la testa ormai sta bene se gira il mondo. Allora Pietrangelo, immagino sarei d'accordo con De Masi, difesa della cultura umanistica, sorprendentemente. Guarda, non c'è dubbio, chi non studia sarà lo schiavo di domani, e c'è anche tutto un racconto politico a conferma di questo. Se pensiamo a cosa ha fatto l'India, che è riuscita a sopravvivere alla colonizzazione degli inglesi in forza della propria identità, e adesso, oggi, è una potenza nucleare. Allo stesso modo, se immaginiamo quali saranno i giorni futuri, la Cina, e parliamo della Repubblica Popolare Cinese, riuscirà ad avere la meglio perfino sugli Stati Uniti d'America, non solo in virtù della sua potenza militare, del suo numero, ma anche per il semplice fatto che accanto a Mao Zedong ha messo Confucio. L'identità forte aiuta sempre in termini che non sono quelli della consolazione degli eruditi, ma di economia e di commercio. Grazie, grazie Pietrangelo. Leonardo da Modena. Salve a tutti, volevo dire due cose per quanto riguarda il lavoro. Sì. E prima un ascoltatore ha parlato che vuole lavorare finché muore. Fino a 90 anni, sì. Fino a 90 anni. Allora, secondo me ci sono delle persone che vogliono lavorare fino a 90 anni, fino a quando si muore. Altre persone, invece, che io mi ritengo una di quelle persone che vorrà lavorare fino a 90 anni, ma io ho trovato un lavoro che coincide con la mia vita. Sono produttore musicale, giro il mondo, faccio musica. E quindi, beato lei. Sì, e io ci tengo a dire, io è un lavoro il mio che mi piace, coincide con la mia vita, con i miei amici, allora? Le mie conoscenze. Ma c'è molta altra gente che fa dei lavori, certo, che io li voglio vedere farli fino a 90 anni. Ah, va bene, infatti, tanta gente, infatti, in pensione ci va volentieri. Provaci a guidare un taxi. Senti, fino a 90 anni. Infatti, tu, Mario, che dici sull'intervento di De Masi? Ma fantastico, tutti e due bellissimi, secondo me, sia De Rita che De Masi, illuminanti. A me fanno paura gli specialisti, che non è il caso di De Masi e di De Rita, che sanno invece leggere la società nel loro complesso. No, non so se abbiamo il tempo per citare un libro. Sì, non lo so, sì, ce l'abbiamo. Cita, un minuto, l'ho ancora citato anche l'altro giorno, di Mario Vargas Llosa, è La società dello spettacolo. C'è anche un sottofondo, credo, da qualche parte. Leggi. Tolstoi, Thomas Mann, Joyce e Faulkner scrivevano libri che si proponevano di sconfiggere la morte, di sopravvivere ai loro autori, di continuare a attrarre e affascinare i lettori nei tempi futuri. Le telenovele brasiliane e i film di Bollywood, così come i concerti di Shakira, non si propongono di durare oltre il tempo della loro presentazione, per poi scomparire, lasciando spazio ad altri prodotti, altrettanto applauditi e altrettanto effimeri. Ma io, Mario, non sono tanto d'accordo con te, perché penso che, come esistono libri destinati a durare nel tempo, selezionati dalla storia dell'umanità, esistono programmi televisivi, film, anche fiction, che resteranno. Il punto è che, qualunque sia lo strumento che si usa per esprimersi, l'eccellenza poi resta sempre. Su questo allora siamo d'accordo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. Mix 24. Allora, Pietrangelo, eccomi. Che ci fai sentire? Arrivo. I've seen them so many times, I feel like I must be your best friend. You're looking fine, so fine, oh my, dressed up like a lovely day. Belli, a Palermo cosa ti ha ispirato? A Palermo è d'obbligo la passeggiata al mattino presto per cercare il mare, per arrivare dove dondolano le barche, dove i gabbiani, a differenza che a Roma, non hanno perso la dignità marina. E lì si incontra una donna dal viso di bimba, la cui voce è un carillon, ha occhi che pongono un fermo immagine, bella come una bella giornata, coi capelli di spagnola, insomma, ho incontrato, più che ha chiamato, ecco, ho incontrato Belix e stava lì in cerca di Falbalà e mi ha detto: ha visto come navigano bene i miei menhir? Turning around and around with the sound. sa che a Palermo. Sì, sì, a Palermo. È più onirico del solito. Sì. Sentiamo come ride sotto. Palermo ispira. E tu, Mario? Vabbè. Punk. Daft Punk. Straordinario di Daft Punk, vedi di Squaw, che tu puoi anche leggere Discovery, senti che roba. Straordinario, dici? Sì. Senti. Ah, la guerriera t'ha fregato? No. La roba tua? Sì. Ah. Senti, è sublime, capisci? Sublime. Guarda, senti. È la nostra pace nello spazio, senti ora cosa succede. Sei rapito? Non sono rapito. Niente, i Daft Punk non sono... mia, è colpa mia. I Daft Punk non sono per Guironi. No. Vabbè, oggi la NATO va da Renzi. E la storiella comincia così, avrà anche un seguito. Quando il segretario generale della NATO bussa a casa tua, solitamente lo fa con due parole segnate in agenda. Soldi e guerra. Certo. Quindi Stoltenberg, oggi Jens, va alle 18 a Palazzo Chigi. Soldi, perché Barack Obama ha chiesto a tutti i paesi alleati di contribuire di più. Non sperate che le cose cambino con Hillary Clinton, la penso uguale. Se poi, puta caso, dovesse vincere Donald Trump, buonanotte a tutti, perché The Donald ha chiesto addirittura di cambiare tutto nella NATO, altrimenti gli Stati Uniti se ne infischiano, come suol dirsi. Ultimo punto in agenda... Ultimo, ma in realtà primo. La missione in Libia è imminente, certo. Quindi prepariamoci. Questa imminenza che è molto da molto tempo imminente, diciamo. Sta arrivando si l'estate, avvicina. Poi fa caldo, capito? Salamino. Dei nemici non c'è scampo quando scende Renzi in campo. Oh, più che un matamoro è un matatutto. Con la mano sinistra sbriga le amministrative, con la mano destra risolve il referendum, olè, o referendum, che dir si voglia, il vero appuntamento su cui il premier che tutto il mondo ci invidia, un mistero però che ancora nessuno se lo prenda, il vero appuntamento su cui lui punta tutto. Così Matteo Renzi con le vie facili si occupa delle comunali, già pregusta di piazzare il nervoso Giuseppino Sala a Milano, Piero Fassina a Torino e Valeria Valenti a Napoli, dove vi arriva di subito Denis Verdini con il suo colpo d'ala per sistemare tutto. Con le vie più complicate invece mette mano alla battaglia vera. 44 gatti, un Prosecco, resto di due, si unirono combatti, un Prosecco. Sono in marcia, serrate le fila, uniti manipoli, combatti duri e massicci, ma non sono 44, sono di più e poi saranno milioni e comunque... 184 professori universitari schierati per il sì alla riforma di Maria Elena Boschi. Esce dunque il manifesto per il sì e non ce n'è per nessuno. Sono per la maggior parte costituzionalisti, ma presto arriveranno le adesioni, per esempio, dei precari per la riforma, supplenti per la riforma, bidelli per la riforma, e siccome sapienti sono, e più che sapienti sono quelli lì, quel gufo con gli occhiali, anche i gufi per la riforma. Per non dire delle pisce. La lepre in tuta rossa. È caduta la linea, lì sta bene. Ecco, così impara. Troppa cattiveria, esatto. Dai, ha mozzato la linea. È troppo simpatico. Tocca a me. Vai. Tocca a te. Devi andare con la bolla. Vabbè, Questi sono i Creedence Clearwater, Fortunate Son. Questo è un pezzo famosissimo, non l'avrei dovuto neanche presentare. La Guerrero oggi l'ho lasciata a secco, non è riuscita a mettere le sue canzoni, anzi, però poi gliel'avevo concesso, così ho detto vabbè, fai quello che vuoi, cioè, sai che per dispetto non l'ha fatto, una cosa tremenda. Vabbè, se la NATO va da Renzi, Obama è in Vietnam, e allora, per usare lo stesso, diciamo, registro, quando il presidente degli Stati Uniti bussa a casa tua, solitamente lo fa con due parole segnate in agenda. Come quello della NATO, come soldi e guerra, sì, è una cosa strana, soldi e guerra. E infatti, guarda un po', sarà un caso, ma Barack Obama è stato in Vietnam e mentre annunciava la fine totale di un embargo che durava, di un embargo che durava da 50 anni sulle armi, guarda un po', la Boeing ha appena firmato un contratto per la fornitura di 100 aerei alla Vietjet a fare da 11 miliardi di dollari, per cui, caro Giovanni, good morning, Vietnam. Ci siamo. Senti, Pietrangelo intanto è riapparso al telefono, se non sbaglio. E allora volevi concludere il tuo salamino? Sì, perché parlavo delle vie complicate, poi ci sono quelle più facili. Cioè Renzi deve vedersela con le comunali di Roma, dove ha lanciato Roberto Giacchetto. Gio Messina, il consulente per la campagna elettorale, ha già messo a segno alcuni colpi di grandi effetti. Il primo, il candidato Giacchetto, opportunatamente sbarbato, munito di solechino alias cravatta su smoking modello barman di via Veneto, si è presentato alla prima della Traviata al Teatro dell'Opera di Roma, dove ho potuto beneficiare di beata foto con Maria Elena Boschi. Ma siccome la sfida vera su Roma non sarà tanto quella di Giacchetto contro Maciste, bensì quella di Renzi con Beppe Grillo per interposta Raggi, è qui che Gio Messina, lo stratega, ha incassato una vittoria. Domo domo, cacchio cacchio, durante il comizio della Raggi a Piana del Sole, una frazione di Roma dove mai si è visto una pattuglia della municipale, sono arrivati vigili urbani armati di blocchetti ed è stato un fuggi fuggi di militanti a 5 Stelle in divieto di sosta, i quali, poverini, al grido di onestà, onestà, onestà, avevano le macchine tutte in doppia fila, ma onestissima tripla fila. Per i nemici non c'è scampo quando c'è la multa in campo. Ed è sempre Sua Eccellenza. Sentiamo il canzoniere. Sì, muori, muori. Il tuo cuore è abbastanza magnifico. La tua vita è matura come i grappoli d'autunno. Alla banda! Alla banda! Io voglio riposare, voglio distruggere progetti e desideri, voglio essere puro, come si conviene a un artista. Aiutino, Pietrangelo! Allora, abbiamo detto che non è Fichte, è un grande poeta, è ben più che tedesco, è universale. Se volete dico il nome e non se ne parla più. Non c'è bisogno, lo scopriranno sicuramente. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Il 22 maggio ricorre l'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante e io sono qui per dire che quando sarò eletta sindaco uno degli impegni che mi prendo è quello di intitolare una strada di Roma a un uomo che è stato fondamentale nella storia della destra italiana e nella storia della politica italiana, un patriota, una persona che amava gli italiani, che credeva nella democrazia, nell'onestà della politica. E esattamente come la sinistra in questi anni ha potuto ai suoi padri fondatori intitolare delle vie o delle piazze nella capitale, vogliamo farlo anche con un uomo che è stato importante per la storia della destra. Così, con l'impegno di Giorgia Meloni, la figura di Giorgio Almirante entra nella polemica elettorale. Giorgio Almirante è un politico di razza, sincero e provocatorio, controverso e raffinato, con una dote assoluta, un'eloquenza innata ereditata dal padre attore di teatro. Il 22 maggio dell'88, a un anno dall'ultimo congresso dell'MSI, Almirante si spegne a Roma per un'ischemia cerebrale. Storico segretario del Movimento Sociale e leader della destra italiana per 40 anni, Almirante è il punto di riferimento dei militanti che dopo la caduta del fascismo hanno continuato a credere nell'Italia di Mussolini. Sulla fronte, ritratto di Giorgio Almirante, fascista coerente e appassionato, le testimonianze, le rivelazioni, i misteri, qui a Mix 24, i gialli della storia, dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, ti parlo di una multa. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. E in ogni caso, se ti mettono una maxi multa da 1,2 miliardi di dollari, può sempre essere cancellata. È successo a Bank of America, condannata appunto nel 2013 a 1,2 miliardi di dollari di multa per i mutui di Freddie Mac. È stata assolta perché? Con che motivazione? Perché in realtà era un sistema che prevedeva tendenzialmente una inadempienza contrattuale, ma non è stato considerato fraudolento. Senti, ma stai parlando di banche, ma per scendere dal macro al micro, ma scusa, in Italia Unicredit oggi ha il suo consiglio di amministrazione, si parla di questo avvicendamento, ma su che base? Ma guarda, dal punto di vista economico Unicredit ha sofferto perdite in borsa come tantissimi altri istituti. Mi pare che ci sia una questione di convivenza difficile tra il consiglio e l'amministratore, questo mi pare abbastanza... E quindi non è legato ai numeri? Non del tutto, secondo me. Non sono scelte che sono sempre sui numeri. Ci sono delle divergenze su, per esempio, alleanze e dismissioni. Che cosa fare con Fineco, per esempio, se fonderla con un altro operatore del settore del trading? Perché è gestita in un modo molto inedito questa vicenda. Beh, insomma... Direi quasi misterioso. È un po' opaca, vedi un po' te. Diciamo un po' opaca. È opaca, no? Per sé. Infatti il mercato si sta interrogando su che cosa succede. Cioè, bisogna dire una cosa, questa è una grandissima banca, uno dei primi erogatori, se non il primo addirittura per tipologia di prestiti in Europa, è una banca italiana, quindi noi dobbiamo trattarla bene, cioè, ma non noi giornalisti, chi ne ha la responsabilità, perché è un pezzo d'Italia che è proiettato nel mondo. Se quella cosa lì fa questa... Insomma, figura, parliamoci chiaro, non è bello. Non è bello. Giuseppe da Milano per il Canzoniere, buongiorno. Buongiorno, ci provo. Helderlin. Giusto. Pronto, giusto, sì. Bravo. Grazie. Oh, era Helderlin, l'hai capito? Hai capito. Ho avuto un'adolescenza e lo leggevo avidamente. Un'adolescenza romantica. Che fa da grande invece? È l'avvocato. Ah, ok. Ascolto Radio 24. Grazie, grazie. Buon lavoro. Lei e allora... a voi, arrivederci, Dio vi conservi. Grazie. Adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, maggio 2016. Ernia del disco. L'ernia del disco è, come sapete, la maggior causa di sciatica, cioè quel dolore che parte dal gluteo e scende giù lungo la gamba. E anche se ci sono persone con ernia del disco con un attacco, una risonanza magnetica positiva, ma rimangono asintomatiche, certamente il problema stabilire se fare un intervento chirurgico per rimuoverla oppure no. Allora, in questa review fatta da New England c'è un po' la messa a punto, la messa in fila di tutte le considerazioni da fare in caso di ernia del disco. La prima è che la storia naturale della malattia è favorevole. Il dolore diminuisce in quasi il 90% dei casi a 3 mesi, nel senso che l'ernia viene espulsa e il dolore quindi regredisce e non c'è bisogno di fare intervento. La TAC o la risonanza magnetica sono indicate se la sciatica persiste per più di 4-6 settimane, quindi non fatela dopo 3 giorni. I farmaci per bocca e l'esercizio danno poco sollievo ai sintomi e il sollievo in genere si ottiene più favorevolmente attraverso un'iniezione epidurale nei pressi dell'ernia, cioè di cortisone. Quando è che bisogna certamente operare? In quei pochi casi dove c'è un vero e proprio deficit neurologico periferico, nel senso che proprio non si riesce più a muovere la gamba o un piede o un dito del piede, perché il deficit neurologico è diventato formidabile. E se c'è una progressione di questo deficit o se c'è una risonanza magnetica positiva insieme a un dolore che dura da più di 6 settimane. Allora lì c'è una valutazione clinica complessa da fare insieme con il neurochirurgo, il chirurgo vertebrale, e poi decidere di andare all'intervento. Tenete presente che anche con l'intervento i risultati a breve sono migliori, ma poi dopo un anno più o meno i risultati sono sovrapponibili tra chi è che ha avuto l'intervento e chi è che non ha fatto nulla. E per chiudere, Gloria Guerrera, oggi cosa ci presenta? Oggi una canzone per chi è preso dallo sconforto. Le prova tutte, ma non piace mai. Antoine Pietre. Sei buono e ti tirano le pietre. Sei cattivo e ti tirano le pietre. Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, sempre pietre in faccia prenderai. Sei ricco e ti tirano le pietre. Sei ricco e ti tirano le pietre.